Quando esisteva ancora un Dio, il nonno di un bisnonno mio, di professione contadino, tirava avanti con fatica un campicello da formica, tre zolle al fuoco del mattino. Ed era un uomo calmo e pio che divideva l'esistenza fra la famiglia ed il suo Dio. E non aveva che un tesoro, una stella d'oro. Un giorno che era lì a zappare, vide degli uomini arrivare in una nuvola di guerra. Volete acqua? Domandò. Quelli risposero: ma no, quel che vogliamo è la tua terra. Ma questa poca terra è mia. Quelli risposero: va via. Lui prese il libro del Signore, la moglie, i figli e il suo tesoro, la sua stella d'oro. E camminando attraversò la notte dell'eternità, chiedendo terra da zappare. Datemi anche una palude, ed io con queste mani nude ve la saprò bonificare. Va via straniero, passi un guaio, se vuoi restare l'usuraio è tutto quello che puoi fare. Tanto sei ricco d'un tesoro, la tua stella d'oro. Rimasto senza campicello, si disse: ho solo il mio cervello e quello devo coltivare. Divenne scriba e poi dottore, poi violinista e professore ed Archimede nucleare. Ma quanti sono, santo è Dio, come ti volti c'è un giudio, come bollare questa peste, gli cuciremo sulla veste la sua stella d'oro. E cominciò la grande caccia, e mille cani su ogni traccia, e fu la fiera del terrore. Braccati in casa e per le strade, erano facili le prede, con quella stella sopra il cuore. E il nostro vecchio contadino perdette tutto in un mattino, moglie, figli, cuore e testa, e disse: adesso non mi resta che la mia stella d'oro. Allora corse verso il mare, lo attraversò per ritrovare la terra che era stata sua. Signore, la vorrei comprare, le dune qui costano care, ma io la pago, allora è tua. Ficcò la vanga nel deserto, quando uno sparo all'orizzonte attraversò lo spazio aperto. Lui cadde in terra e sulla fronte una stella d'oro. Una stella d'oro.